GR Europa. Domani a Bruxelles il vertice dei capi di Stato e di Governo europei che deciderà come l'Europa vuole spendere le sue risorse nei prossimi 7 anni. Una questione delicatissima, il rischio è che per salvare le buste nazionali, cosiddette i leader, siano disposti a tagliare la spesa comune destinata alla crescita. Un rischio che ha ben presente il presidente dell'UE, Herman Van Rompuy. E da qui il suo appello ai governi perché non siano miopi, perché non facciano cadere le scure proprio sui fondi destinati all'emergenza, occupazione e sviluppo. Ciò che serve davvero a lui, ha detto, ora è crescita e occupazione, e quello che serve in futuro è ricerca e innovazione. Così Van Rompuy in un video messaggio ai leader dei 27. Pompei, modello per l'UE di come i soldi pubblici europei debbano finanziare la crescita e l'occupazione attraverso la cultura. È un'ipotesi che sostiene il commissario europeo alle politiche regionali Johannes Hahn, oggi a Pompei, presenti i ministri dell'interno cancellieri, della cultura Ornaghi, della coesione territoriale Barca, per dare il via al lavoro di 2 cantieri nell'ambito del progetto per il restauro degli scavi. Lo abbiamo raggiunto. Dobbiamo attendere l'accordo generale sul bilancio in discussione in questi giorni a Bruxelles, ma sono certo che alla fine avremo un quadro di finanziamento pluriennale per questo progetto di riabilitazione degli scavi di Pompei. Per quanto riguarda il dialogo tra la Commissione e le autorità italiane, sono abbastanza certo che continueremo a lavorare insieme. A Pompei ci sono già 2 milioni di visitatori l'anno e la riabilitazione del sito avrà un forte impatto sull'economia locale. Parliamo di patrimonio culturale, ma anche di economia, di lavoro, lavoro sostenibile a lungo termine, un fatto che non andrebbe sottostimato. Commissario Hahn, proprio oggi un arresto, l'imprenditrice dei restauri al centro di un'indagine per frode. La corruzione è sempre un tema sensibile quando si tratta di finanziamenti. Le notizie di cronaca e l'arresto di un'imprenditrice che curava il restauro non hanno nessuna connessione con il progetto, e intendo il nuovo progetto. Ho sempre detto che noi vogliamo preservare la tradizione culturale e non certo quella criminale. E sono anche certo che il nuovo sistema antifrode che abbiamo messo a punto a livello di Commissione europea sia estremamente efficace, così come sono certo lo sarà il sistema messo a punto dal ministro Barca per evitare l'impatto di gruppi criminali e mafiosi. Certo che si tratta di una sfida permanente, ma io credo anche che questo progetto dimostri la forte volontà nostra e dei nostri interlocutori politici locali perché sia efficiente e anche trasparente, perché l'opinione pubblica possa seguirne l'evoluzione e perché sia infine un contributo alla lotta alla corruzione. Commissario, quello che lei spera è che il progetto di rilancio di Pompei possa un giorno essere considerato un modello che va ben oltre gli scavi? Sì, Pompei può diventare il modello di come dobbiamo implementare dei progetti finanziati dall'Unione Europea, in particolare nel Mezzogiorno. Grazie al commissario Hahn e anche a Sergio Nava che gli ha prestato la voce. Battaglia a proposito di tagli e spese sulla doppia sede del Parlamento Europeo che ogni mese si trasferisce da Bruxelles a Strasburgo per tenere le sessioni plenarie. Il presidente francese Hollande difende la sede in Alsazia che per i trattati è quella principale, anche se la stragrande maggioranza dei parlamentari si è più volte espressa contro la transumanza cosiddetta mensile, costosa tanto in termini economici quanto di emissioni, per il trasferimento di migliaia tra parlamentari e funzionari. Il capogruppo dei Tory britannici Martin Callaghan ha sfidato il presidente François Hollande a rinunciare al veto alla sede unica a Bruxelles. Strasburgo, ha detto, è una città molto bella che va visto almeno una volta nella vita, ma non una volta al mese. E noi con questo abbiamo chiuso. GR Europa torna domani dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.